A Radio 24, due di denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. La passione si sente. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. L'attesa si rinnova per la nuova società. In questo clima di sgomento per il popolo italiano viene fuori l'acutezza del pensiero. Cara Deborah, io non posso interrompere il maestro, quindi comincia pure tu questa trasmissione. Buongiorno. Buongiorno, sai che io da remoto non posso controllare quello che fai, a meno che non mi colleghi al Facebook, cosa che non ho fatto ancora questa mattina. Ti sei raccolto in preghiera per le circostanze? Beh, ed è il caso di dirlo in tutti i sensi. Doppiamente raccolto in preghiera, mi verrebbe da dire. Allora, innanzitutto il segno di rispetto, sono in piedi, e poi come sempre c'è un attimo anche di raccoglimento, perché esatto. Non vorrei sembrare ironico, ma effettivamente io e anche i miei colleghi dei Chapter 11 davvero abbiamo una devozione totale per Giorgio Gaber, sì. E quindi quando ci sono brani di Giorgio Gaber noi ammutoliamo e ascoltiamo in silenzio. Un grande come quello scomparso questa notte, Ennio Morricone, che naturalmente anche noi ricordiamo. Ma tutto questo ci porta in realtà al quesito proposto tra le pagine questa mattina dell'Esperto Risponde, l'inserto del lunedì del Sole 24 Ore. Caro Mauro, allora io vorrei sapere da te se tra i destinatari dell'agevolazione per il restauro delle facciate è un bonus del 90% delle spese sostenute, quindi non è vantaggioso come l'ultimo nato in casa governo 110%, ma anche questo è piuttosto generoso. Ma appunto rientrano anche fra i destinatari gli enti ecclesiastici come parrocchie e curie, e cioè il parroco che vuole rifare la facciata alla sua chiesa. Può utilizzare anche questo importante incentivo fiscale? Guarda, la risposta, come spiega l'esperto sul numero del Sole 24 Ore odierno, è affermativa. Perché l'Agenzia delle Entrate, devi sapere, rispondendo a un interpello, il 179/E dell'11 giugno, ha spiegato che sotto il profilo soggettivo questo bonus, il bonus facciate, è fruibile da tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per eseguire gli interventi agevolati. Questo prescinde dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, dalla natura pubblica o privatistica. Quindi il bonus facciate non può essere utilizzato però da soggetti che possiedono solo redditi assoggettati alla tassazione separata. Non so, hanno ad esempio percepito solo e soltanto un reddito per un pagamento di un TFR, ad esempio, oppure a imposta sostitutiva sono solo investimenti, ad esempio, ricavano solo dagli investimenti che hanno fatto. Per il resto invece anche gli enti ecclesiastici, quindi parrocchie, curie eccetera, possono utilizzare questa detrazione del 90% delle spese sostenute per rifare la facciata. E questo, per questo abbiamo scelto appunto il maestro Gaber, per indicare che la chiesa si rinnova, nel senso che qui si rinnova più che altro la facciata, verrebbe da dire. Non e infatti, fa una no, teniamo piega... conto. Prego. Che ci sono tanti parroci che ci ascoltano. Ti ricordi che forse proprio all'inizio del lockdown ci aveva scritto qualcuno? Adesso devo ripescare sì. questa mail. Per ci cui scritto, insomma ci aveva scritto un parroco dalla provincia di Como, se ricordo bene. Ecco, esatto. Insomma, ascoltatori insospettabili, ma non più di tanto, perché anche loro devono far quadrare i bilanci delle loro parrocchie, e quindi qualche volta siamo in grado di dare dell'aiuto anche a loro. Non so se sono anche degli investitori, Mauro, che ne dici? Ma non saprei dire, sicuramente però potremmo invocare da parte loro quantomeno una preghiera per a me verrebbe da dire il buon andamento dell'economia in generale. E poi oggi è una giornata delicata perché parte il BTP Futura, quindi insomma vediamo se tutto quanto funzionerà in modo benevolo. Non vorrei scomodare invece protezioni dall'altissimo per quanto riguarda i mercati finanziari, davvero mi pare cosa troppo irriguardosa, non vorrei essere scomunicato appunto da qualche parroco all'ascolto in diretta. No, esatto, ci sono delle altre santità e delle altre autorità non tanto misteriose che aiutano i mercati in questo periodo, sono i governi ma soprattutto le banche centrali. sociali questa mattina, grazie anche ai sostegni già in atto e a quelli promessi, sono volate le borse cinesi in termini positivi, più 5, più 6%, quindi, caro Mauro, non c'è tracollo economico che tenga, qua i mercati azionari continuano a correre ed è, direi, un tema che noi possiamo già cominciare ad esplorare con il primo ospite di questa mattina, il nostro meteo borsologo del giorno, e quindi direi di partire. Ma sicuramente. Meteo borsa. Tra l'altro stamattina, Mauro, abbiamo ben due ospiti da Londra. Il primo è Pasquale Diana, responsabile della ricerca macro per Acomea SGR, che salutiamo. Dottor Diana, buongiorno. Ci sente? Buongiorno, salve. Eccoci qua, perfetto. E poi ne avremo un altro come ospite, tra virgolette, tecnico per spiegarci e per spiegarlo soprattutto agli amici risparmiatori le caratteristiche del BTP Futura insieme a Davide Iacovoni, capo del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Tutto questo però a partire dalle 11.30. Prima raccontiamo la giornata di borsa e soprattutto le prospettive che si aprono su questa settimana con un allungo rispetto all'andamento già positivo di settimana scorsa. Nonostante Wall Street non abbia dato un grande contributo, abbiamo avuto giovedì mezza giornata di contrattazione e poi venerdì chiusura alla vigilia della festa dell'indipendenza, oggi si riparte di grande slancio per i listini continentali, ma soprattutto stamattina è andata molto bene l'Asia e siccome abbiamo proprio il tema macroeconomico sotto i riflettori, direi di far partire subito il dottor Diana con un'analisi rispetto a tutto questo. Diana, buongiorno di nuovo. E allora, che cosa ci racconta questa euforia di inizio settimana? Voi come ve la spiegate, visto che con Mauro Meazza stiamo continuando ad essere attanagliati da questo dilemma? Economia a picco e borse che volano. Voi come ve lo giustificate questo andamento, quello che Mauro Meazza chiama lo strabismo delle borse? Buongiorno innanzitutto. Allora, c'è un paio di ragioni. La prima, diciamo, una ragione che è presente questa mattina, ci sono stati sono state delle notizie positive in Asia, in particolare un articolo su Securities Times, che è un giornale molto vicino al governo, in cui sostanza si dice in un editoriale che è importante mantenere un mercato azionario positivo dopo la pandemia e adesso questo è più importante che normalmente. Quindi questo tono così ottimista, un po' così bullish, ha portato alcuni a immaginarsi nuovi sostegni da parte delle autorità sia monetarie che fiscali. Quindi questa è la ragione proprio per l'apertura così forte delle borse asiatiche di stamane. Poi c'è un discorso molto più ampio al quale, ecco, faceva riferimento lei, è un discorso che parte dalla liquidità. Abbiamo visto un'espansione della liquidità enorme da parte della Fed, basti pensare che solo nel mese di aprile è entrata più liquidità che nei primi tre programmi di QE negli anni passati messi insieme, e poi un'espansione di liquidità minore finora ma sempre importantissima anche da parte della BCE in Europa, della BOJ in Giappone. Questa liquidità chiaramente va a supportare assets diciamo di ogni tipo, ma chiaramente visti i tassi così bassi si suppone, insomma, che questa liquidità in un modo o nell'altro vada verso rischi assets, tra cui equities o bond di mercati emergenti. Quindi il discorso sul rischio è questo qui. Chiaramente non è indipendente dal Covid, quindi comunque si guarda ai dati del Covid con una certa preoccupazione, si guarda all'Europa con ottimismo, con crescente ottimismo. Insomma, l'Europa ha riuscito finora a contenere in maniera, diciamo, abbastanza positiva qualsiasi seconda ondata, almeno per adesso. Si guarda con molta preoccupazione i dati, come sapete bene, statunitensi e dell'America Latina. Quindi quella preoccupazione di fondo rimane. Non vorrei essere, come dire, il pessimista di turno, dottor Diana, ma questi... Il menagramo vuoi fare? No, ci mancherebbe altro, però in queste settimane abbiamo visto anche improvvisamente delle brusche scivolate, no? Certo, quella grandissima, fortissima quando c'è stato il lockdown ed è iniziata la pandemia, ma poi anche nelle fasi più di recupero di tanto in tanto ci sono stati dei cali anche bruschi. in gergo, insomma, in una parola, volatilità. La volatilità è in aumento, è stabile, è in, si sta riducendo? Qual è la vostra valutazione? C'è un discorso, come dice giustamente lei, quando entra tutta questa liquidità, ma ci sono dati macro, diciamo, difficili da interpretare, è normale che ci sia una volatilità più elevata. Durante il periodo estivo, presumibilmente, dovrebbe essere questo un periodo più, più tranquillo, facendo gli scongiuri. Quello che sta anche succedendo è che voi vi riferivate prima allo strabismo delle borse rispetto all'economia reale. In effetti è così, però è anche vero che almeno nelle ultime settimane i dati macro sono stati quasi ovunque, direi, con l'eccezione del Giappone, superiori all'attese. Quindi in sostanza quello che sta succedendo è che in particolare in Asia, ma abbiamo visto anche in Europa, si sta vedendo un rimbalzo in parte tecnico, in parte fondamentale, un po' migliore di quanto ci si aspettasse. Infatti se guardiamo gli indici di sorpresa rispetto alle attese degli analisti, questi indici, diciamo, si sono ripresi, quindi insomma i dati macro non dico che hanno giustificato il rialzo dei rischi assets, ma insomma ecco questo strabismo a cui facevate riferimento prima, diciamo va un po' assottigliandosi. Poi chiaramente rimane il discorso dei contagi, della seconda ondata. Chiaramente non è pensabile pensare che se c'è una seconda ondata i dati macro non ne risentiranno nella seconda parte dell'anno. Però per adesso, certo, diciamo, bisognerà vedere come verrà affrontata questa eventuale recrudescenza. Dal punto di vista macro, le chiedo quali sono i temi principali della settimana. Sarà una settimana, credo, allora, abbastanza scarica rispetto a tante altre che abbiamo visto, ma ce ne sono di temi rilevanti a cui darete un'occhiata? Sì, io direi di gran lunga il tema principale è la videoconferenza di giovedì in cui si parlerà tra i leader europei del Recovery Fund. Come sapete c'è ancora una certa opposizione da parte dei paesi famosi, i Frugal Four, sarebbero Olanda, Austria e altri, che insomma si oppongono al piano franco-tedesco e poi sponsorizzato dalla Commissione. Adesso io sono convinto che una quadra la si troverà, però è vero anche che l'Olanda ha elezioni nel 2021 e quindi il primo ministro Rutte deve un po' fare la voce grossa. Insomma, è tutto un gioco delle parti. Io penso che una quadra la si troverà. In particolare si potrebbe diciamo definire un po' in maniera diversa la proporzione degli aiuti che sono grants verso quelli che sono prestiti, in una maniera che renda più facile vendere l'accordo tra la popolazione. Però diciamo che questo meeting di giovedì è importante, e in vista anche di un summit europeo a metà mese, quindi lì vedremo se si trova l'accordo. Tenete anche a mente che questo accordo andrà poi ratificato in ogni paese, quindi se vogliamo partire nel 2021 è indispensabile che un accordo, se non a metà luglio, ma nelle settimane a seguire, venga trovato, appunto per dar tempo ai parlamenti di ratificare. Il Recovery Fund è molto importante perché, ricordiamo, segnala un cambio di rotta chiarissimo da parte della politica fiscale europea, dall'austerità a una politica fiscale molto più pro crescita, e con anche i primi segnali di mutualizzazione del debito e trasferimenti fiscali. Quindi diciamo un cambio di paradigma importantissimo per l'Europa, e per questo guarderemo con attenzione i numeri e gli annunci di giovedì. Questo è l'evento, diciamo, della settimana. Da lì poi, se ci fosse un qualche rinvio, cosa non improbabile in questi summit europei, qualche procrastinazione ulteriore, potrebbe essere un brutto colpo per i mercati, oppure tutto sommato lo mettono in conto, perché si sa che le trattative all'interno dell'Unione sono sempre delicate? Io direi che è già messo in conto, almeno se noi guardiamo come si è evoluta la situazione di summit simili in passato, si vede che l'Europa ha una tendenza a procrastinare oppure a trovare una quadra all'ultimo minuto, quindi mi sorprenderebbe molto in positivo se già giovedì emergessero segnali positivi oppure di un accordo già raggiunto. Adesso non mai dire mai, però insomma io penso che si arriverà all'ultimo minuto cercando di fare concessioni all'Olanda, Austria, Svezia e altri paesi diciamo un po' scettici. Per cui direi, se giovedì non ci fossero notizie positive, direi che il mercato non la prenderebbe male, perché in sostanza non se le aspetta già questa settimana. Però sarà importante vedere dove ci sono, se ci sono già dei segnali di disgelo, se si capisce un po' dove si può trovare il compromesso. Se è solo una questione di cambiare un po' la proporzione tra grants e prestiti, lì insomma dovrebbe essere abbastanza facile. Ecco. Vediamo quanto allora saranno disposti a cedere i paesi cosiddetti frugali, i quattro paesi frugali. Deborah? Sì, direi che possiamo salutare il nostro ospite di questa mattina, anche perché fra pochi minuti devo tornare a dare la borsa. Andremo nel dettaglio della seduta di Piazza Affari, che oggi, oltre chiaramente a monitorare il settore obbligazionario per la partenza delle BTP Futura, di cui parleremo diffusamente nella seconda parte della trasmissione, in realtà parte un'altra grande operazione, l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo e UbiBanca. Nel weekend ci sono state prese di posizione reciproche molto feroci e adesso ve le racconteremo. Intanto ringraziamo Pasquale Diana, responsabile della ricerca macro per Acomea SGR, e diamo il via al nostro giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo. Allora, una vita in vacanza se trovate una struttura alberghiera che accetta il bonus vacanze. Ci sono diverse cose da dire a questo proposito, cara Deborah. Sì, mi ci sto appassionando in qualche modo a questo bonus, perché, allora, nonostante il percorso non sia dei più lineari, per dir così, perché abbiamo capito che serve lo SPID oppure la carta d'identità elettronica, che poi bisogna andare su un'app, su un sito, che da questo sito bisogna scaricare un'app, che da questa app bisogna avere il QR code, che con il QR code poi trovi la struttura, insomma, e hai questo bonus 500 euro per famiglia di tre componenti, un po' meno con i due componenti, 150 per il singolo. E però, nonostante tutta questa premessa che ho fatto, questa mattina il vice ministro dell'economia Laura Castelli ci ha detto che 350.000 bonus sono stati già emessi per un controvalore di 150 milioni di euro. Quindi fin qui verrebbe da dire tutto bene. Tra l'altro l'Agenzia delle Entrate ha una sezione dedicata, ha una guida, un vademecum, quindi agenziaentrate.gov.it, se volete andare su internet a informarvi, e ha dato degli altri chiarimenti. Ad esempio, il bonus vacanze può includere anche costi di servizi accessori, come i servizi balneari, purché siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. Quindi una estensione anche nell'utilizzo, ma i consumatori cosa dicono, Deborah? I consumatori si lamentano del fatto che appunto molte strutture ancora sono un pochino resistenti nel dare la loro disponibilità ad accettare questo bonus. C'è un'indagine fatta da Federconsumatori che sostiene che solo il 46% delle strutture monitorate accetta il bonus vacanze. L'osservatorio nazionale di questa grande organizzazione dei consumatori ha monitorato 370 strutture in tutto il territorio nazionale, nelle principali località turistiche al mare, in montagna, nelle città d'arte, chiedendo se accettassero o meno il bonus, e i risultati non sono stati particolarmente buoni. Mettiamola così, Mauro, speriamo che la rilevazione fatta in queste prime giornate di partenza dell'intera operazione possano essere risultati che ancora non siano molto promettenti. Speriamo che progressivamente anche le strutture ricettive prendano più confidenza con questo nuovo strumento e magari lo accetteranno un po' di più. Peraltro l'indagine dice che delle strutture monitorate 210 sono alberghi, 110 sono bed and breakfast e 50 sono agriturismi. E quindi, insomma, magari fra una settimana avremo un aggiornamento di questa rilevazione che ci darà la misura di una maggior disponibilità da parte delle strutture turistiche ad accettare il bonus vacanza. Nel frattempo l'ENIT, cioè l'Agenzia Nazionale del Turismo, ci informa che per agosto soltanto 4 camere su 10 sono prenotate, quindi c'è spazio, insomma, non solo per chi ha preso il bonus vacanza, ma un po' per tutti. C'è un po' di risveglio, naturalmente, insomma, comunque l'attrattiva, la capacità di attrazione del nostro paese continua a funzionare sia nei nostri confronti, noi turisti italiani, ma anche nei confronti degli stranieri. Però Venezia, ad esempio, sta in affanno, 68% di camere risultano ancora disponibili, Rimini pare si stia riprendendo, ha una metà delle notti già prenotate. Le grandi città d'arte hanno una quota di mancate prenotazioni che va dal 26% di Firenze, che è il dato migliore, 38% a Roma, 39% Milano, 47% Napoli. Però chiaramente le città d'arte, come segnala anche l'Agenzia Nazionale del Turismo, sono penalizzate per il fatto che dipendono soprattutto dal turismo internazionale e quindi si aspettano dei dati in calo complessivamente per tutto il 2020, proprio a causa dei limiti e dei vincoli che ci sono con altri paesi. Mauro, è tardissimo. Caspita, come passa il tempo quando ci si diverte, vedi? Allora dobbiamo andare a parlare del BTP Futura, che è questo nuovo strumento molto interessante, tutto da capire, già ne abbiamo parlato lunedì scorso. Diamo prima una veloce occhiata alle borse. Deborah, se puoi, se sei disponibile. Sono adesso. Pronta. Ah, va bene. E allora, guarda, facciamo così, le borse. 10 e lode, come sempre. Grazie. Come tutte le mattine, vi trovo di una preparazione adamantina. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Due di denari. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Ti sei alzato un'altra volta? No, in questo momento no, onestamente, perché ero qui che scrutavo le caratteristiche del BTP Futura. Ma forse, come dire, possiamo chiederle direttamente a chi se ne occupa, sì. Non credi, Deborah? Anche se, assolutamente sì, anche se chiaramente noi molti dettagli li abbiamo già dati lunedì scorso, forse oggi sarà il caso di partire con la novità di venerdì, perché per il BTP Futura, il nuovo titolo, appunto, chiamiamolo così, pandemico, tra le tante definizioni che gli sono state date, proprio perché la raccolta sarà destinata a finanziare le misure per fronteggiare l'emergenza, ma alcuni dettagli ulteriori sono arrivati venerdì, visto che il Tesoro ha fissato i tassi minimi garantiti. Perché parlo al plurale? Perché non parlo di un tasso minimo garantito? Perché praticamente, visto che questo titolo ha 10 anni di vita, praticamente ci sarà questo meccanismo di step up cedolare e quindi sì, un flusso cedolare che andrà a crescere nel tempo, una prima cedola distribuita fra 4 anni e poi nei 3 successivi 3 e 3. Ma non vorrei essere così pasticciona nel racconto, direi che abbiamo dei super professionisti che ci danno qualche dettaglio in più. Salutiamo con piacere il ritorno di Davide Iacovoni, responsabile direzione debito pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Buongiorno dottor Iacovoni, grazie. Buongiorno, grazie per l'invito. Eccoci qua. Sì, le chiedo subito se ha già dei dati su come stanno andando queste prime ore di raccolta, visto che anche l'altra volta ci aveva portato già delle notizie sulle prime battute. Ne abbiamo già, se non ne abbiamo sì, non è un problema. No, ne abbiamo, diciamo, il dato sta andando a nostro avviso bene, nel senso che diciamo abbiamo un flusso abbastanza regolare di ordini che sta arrivando, siamo oramai, diciamo, circa intorno alle 2 ore e mezza di apertura del collocamento, quindi diciamo sicuramente positivo fino ad ora. Capisco che forse per scaramanzia non vuole darci cifre ancora. Anche perché comunque questa volta ci sono più giorni di tempo. Sì. Prego. Esatto. Diciamo siamo intorno al miliardo di euro di ordini ricevuti, però va tutto quanto, appunto, poi messo in rapporto al fatto che questo è un collocamento solo per retail che si sviluppa, che questa è anche una novità, sui 5 giorni, e quindi tutti questi numeri andare poi a confrontarli, per esempio, con la precedente emissione del BTP Futura rispetto del BTP Italia, chiedo scusa, rispetto sì, a quale comunque, diciamo, il paragone, come abbiamo detto molte volte, non è particolarmente appropriato, però anche prendendo quello con riferimento si può dire che comunque in questo momento il risultato è soddisfacente. Però è anche vero che è il primo giorno, c'era molta attesa, quindi ha preso tutto un po' con le molle, come si dice. Sì, anche forse per il meccanismo, diciamo, di riconoscimento delle cedole, per il meccanismo di calcolo del rendimento, magari anche corretto che un piccolo risparmiatore, Mauro, che ne pensi, possa prendersi un pochino di tempo in più per fare un calcolo di convenienza, no, sulla bontà di questo investimento a seconda dei propri bisogni, chiaramente, perché sempre da quello bisogna partire. Certamente. Sai che a proposito di numeri, noi non abbiamo per nulla ricordato i nostri numeri, invece, che non sono cambiati. 800 24 00 24 per il numero verde per intervenire in diretta, SMS e WhatsApp 349 238 6666 è il nostro numero, che serve sia all'uno che all'altro tipo di messaggi. Oh, naturalmente qualcuno chiede già della tassazione, io te lo dico sempre, Debora, la tassazione è il cruccio vero di noi italiani. Allora, possiamo, questo lo so anche io, perché il dottor Iacovoni me l'ha spiegato anche l'altra volta. Si paga sul BTP Futura, sul guadagno del BTP Futura, una tassazione ridotta, non il 26% che si paga sugli investimenti azionari standard, diciamo così, ma il 12,5%. Ho capito, sì, bene, avevo giusto l'appunto, dottor Iacovoni? Scusate se mi insinuo, però perfetto, aggiungo, chiaramente questo investimento va fatto e messo in un dossier titoli che poi ha l'imposta di bollo a fine anno, quindi quello è anche un altro aspetto, non è la sorpresona che poi arriva, ma anche questo aspetto appunto va considerato. Scusatemi se mi sono intrufolata, ma molti, perfetto, lo scoprono solo alla fine dell'anno, dottor Iacovoni. Abbiamo anche Andrea Iannelli in collegamento. Prego, dottor Iacovoni. Prego, prego. No, dicevo, è correttissimo che bisogna fare una valutazione diciamo dell'insieme delle varie imposte, chiaramente bisogna tenere conto di questo, ma questo è un aspetto che diciamo su tutti quanti gli strumenti dematerializzati che sono un deposito titoli viene applicata questa tassazione di bollo aggiuntiva, diciamo, però non credo sia una novità, magari uno se lo ricorda effettivamente a fine anno, però diciamo è un dato costante per qualunque strumento finanziario, il solo fatto di avere un deposito titoli comporta questo aspetto. Sa quando se lo ricorda, dottor Iacovoni, quando magari bisogna confrontare i rendimenti dei propri risparmi complessivi con anni difficili, chiaramente allora anche la tassazione incide, ti rosicchia un po' il rendimento magari faticosamente maturato quando gli anni sono particolarmente brillanti, il peso della tassazione è più sostenibile. Mauro, stavi facendo gli onori di casa presentando anche il nostro secondo ospite. Sì, esatto, e si tratta di Andrea Iannelli, che è direttore investimenti Fixed Income di Fidelity International. Spero di avere detto buongiorno giustamente la carica, dottor Iannelli, buongiorno. Sì, perfetto, grazie. Allora, Debora, non lo so, vuoi dare qualche ulteriore caratteristica? Perché qui ovviamente gli ascoltatori, sì, esatto, già ci bersagliano. Farei spiegare al dottor Iacovoni lo step up, praticamente noi lo diciamo ancora all'inglese, ma questo meccanismo di distribuzione crescente delle cedole, poi parleremo anche del premio fedeltà legato all'inflazione, alla PIL nazionale, ma partirei proprio dai tassi minimi garantiti che avete comunicato venerdì, dottor Iacovoni. Sì, senz'altro. Allora, la caratteristica di questo titolo, come giustamente veniva ricordato, è in questo meccanismo di cedole crescenti. Le cedole rappresentano la remunerazione che viene data al titolo. Questo è un titolo che, come tutti gli altri titoli di Stato italiani, prevede una cedola semestrale. Il calcolo della cedola semestrale viene fatto in base a un tasso, appunto tasso cedolare, tasso di remunerazione. Questo tasso è costante solo per i primi 3 anni, e sarà pari all'1,15% per i primi 4 anni, per i secondi 3 anni invece la cedola sale, questo tasso cedolare sale e arriva all'1,30%, per gli ultimi 3 anni, quindi gli ultimi 3 anni fino alla scadenza finale, si arriva all'1,45%. Quindi, a differenza dei titoli standard BTP che normalmente hanno appunto una cedola fissa dal momento in cui il titolo viene emesso al momento in cui scade, qui la differenza è appunto che c'è questo meccanismo di salita progressiva della cedola, che quindi chiaramente incentiva alla detenzione per un tempo più lungo possibile. Ma naturalmente questo non impedisce al soggetto di poter rivendere il titolo ove ne abbia bisogno, ove abbia la necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza finale, perché c'è un mercato di riferimento, che è appunto il mercato dove in questo momento sta avvenendo il collocamento, che è il MOT. Ricordiamolo sempre che è il mercato di borsa italiana dedicato al segmento obbligazionario, e quindi troverà sempre con il massimo di trasparenza le condizioni di prezzo, quindi in ogni momento saprà non solo quant'è la valutazione del titolo che ha in portafoglio, ma anche quanto effettivamente riuscirebbe a incassare in caso di vendita. Il titolo poi ha questo premio finale al decennio, perché abbiamo questo schema 4-3-3, grazie Deborah che non fai citazioni calcistiche oggi, perché come sai ho pensato quando passavo a Bologna. No, ma è stata fatta da noi un'opera veramente buona, giustamente anche nei confronti di giocatori giovani ed esordienti che meritavano la ribalta migliore. Detto ciò, invece merita la ribalta questo premio finale, perché è un premio che è calcolato sull'andamento del prodotto interno lordo italiano nel periodo di detenzione del titolo stesso, Iacovoni, è così? Cioè come va, a seconda di come andrà il PIL in questi 10 anni, poi allora ci sarà un extra premio per chi arriva fino in fondo e terrà questo titolo per 10 anni? Esattamente, chi oggi lo acquista in queste giornate di collocamento e lo detiene fino a scadenza, quindi fino a luglio del 2030, riceverà questo premio. Questo premio ha quello che noi in gergo tecnico chiamiamo floor, cioè un pavimento, traducendo dall'inglese, quindi non potrà essere inferiore a questo floor dell'1% sul capitale nominale investito, ma il calcolo poi di questo premio terrà conto appunto dell'andamento del PIL nominale italiano a partire da quest'anno fino all'anno prima della scadenza, quindi sostanzialmente dal 2020, l'anno in corso, fino al 2029, che è l'anno che precede la scadenza finale del titolo. Ed è importante, su questo magari lasciatemelo sottolineare questo aspetto, che la performance del PIL viene calcolata calcolando il tasso di crescita del PIL nominale per ogni anno, quindi si fa la crescita del PIL di un anno rispetto all'anno precedente, si prendono tutti questi tassi di crescita del PIL nominale, si fa la media, e quella media diventerà il valore del premio fedeltà. Quindi se questa media sarà sotto l'1%, si riceverà comunque l'1%, perché abbiamo detto che questo è il pavimento, è il floor. Se invece il calcolo di questa media sarà superiore all'1%, si prenderà il valore di questa crescita media del PIL nominale. Naturalmente c'è anche un cap, anche qui un tetto massimo, in termini tecnici, diciamo un tetto massimo che è il 3%, cioè ove il tasso di crescita medio del PIL durante questo periodo di vita del titolo superi il 3%, il massimo sarà comunque il 3%. Va detto che quindi in calcolo di questa media entrerà anche la crescita del PIL tra il 2021 e il 2020. Che tutti sanno essere un dato molto rilevante, dovuto al fatto chiaramente che quest'anno, come tutti sappiamo, purtroppo sarà un anno molto negativo dal punto di vista del PIL, dovuto agli effetti della crisi da Covid-19, ma sappiamo che l'anno prossimo ci sarà quindi tecnicamente un'importante ripresa del PIL, e quindi questo tasso di crescita del 21 rispetto al 20 entrerà nella media di questo calcolo e sarà sicuramente un tasso di crescita molto importante se confrontato con la performance media italiana anche degli ultimi 30 anni. Certo, avremo una sorta di rimbalzo, questo sembra anche una cosa ragionevolmente prevedibile, ecco, per dir così. Deborah, sono le 11:46, quindi andiamo prima col traffico e poi sentiamo anche Andrea Iannelli. Traffico. Due di denari. Ci sono dentro anch'io, io. Ci sono dentro anch'io, io. Ci sono dentro anch'io. E abbiamo lo stesso. Voglio decidere anch'io, perché abbiamo lo stesso futuro. Buongiorno, volevo sapere, secondo voi, è più conveniente i BTP, questi di nuova emissione, o investire in una polizza pensionistica in cui c'è la detrazione fiscale del 22%? Grazie. Mamma mia, che domanda impegnativa, Mauro. Sì, anche perché qui bisognerebbe affrontare questioni di matematica finanziaria, penso. Ma posso dire che qui però secondo me proprio non si possono mettere insieme le pere con le mele. Cioè la polizza pensionistica, lo strumento pensionistico ti serve per un certo obiettivo. Sul BTP Futura puoi fare, immagino, un ragionamento diverso. Io non so se il nostro esperto di mercato obbligazionario, qui facciamo mettere la casacca adesso Andrea Iannelli di consulente, come la pensa? È come dire compro la sogliola oppure non lo so. O la bicicletta, perché è un pochino esatto, sembrano due infatti. Cose diverse, insomma. Iannelli. No, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la trasmissione. Ma sinceramente il paragone con la polizza pensionistica forse non è più adatto come segnalava anche voi. Oggettivamente quando si va a guardare il valore di un'obbligazione come il BTP Futura con le caratteristiche che sono state descritte prima, quello che si deve andare a guardare come alternativa più naturale, vista la liquidità, vista la possibilità di poterne uscire comunque, vendere l'obbligazione qualora si avesse bisogno di liquidità, è il BTP tradizionale, quindi il BTP tradizionale BTP con scadenza a 10 anni, quindi il 2030. Adesso dobbiamo fare una serie di assunzioni, insomma, dobbiamo andare a guardare, se prendiamo per esempio come base i tassi che sono stati settati, 1,15, 1,30, 1,45, e presupponiamo che il premio minimo sul TIL a scadenza sia quello che effettivamente viene ricevuto, quindi l'1%, il BTP Futura nel corso dei prossimi 10 anni renderà ad un investitore che investe oggi 10.000 euro, ad esempio, un flusso cedolare più il premio a scadenza di circa 1.380 euro. Adesso, questo in termini di rendimento equivalente, quindi in termini percentuali, significa un rendimento dell'1,37%. Adesso, se andiamo a guardare qual è l'alternativa che un risparmiatore oggi ha a disposizione sul mercato, dobbiamo andare a guardare il BTP che è con scadenza 2030, che ha un rendimento più basso di quello del BTP, Futura, di circa l'1,20%. Più o meno. Quindi c'è sicuramente un premio, tra virgolette, che si riceve nell'investimento, nel momento in cui si va a investire sul BTP Futura. Una serie di considerazioni che però vanno fatte. Il premio a scadenza si otterrà, il premio sul TIL si otterrà solo se si rimarrà investiti nel prodotto, nell'obbligazione per tutto il periodo. E si potrà beneficiare dello step up solo nel momento in cui l'investimento verrà mantenuto intorno a tutto il periodo. Certo, e questo chiaramente rende il BTP Futura un prodotto che magari è più adatto per un investitore che non deve preoccuparsi troppo di fare cassa, no? di liquidità, ma può permettersi di parcheggiare una parte dei propri risparmi su questo prodotto. Un investitore invece che non è sicuro se magari potrebbe aver bisogno di quella liquidità da qui a qualche anno o a qualche mese, non andrebbe a beneficiare nello stesso modo dello step up e di tutti gli incentivi che appunto sono stati incorporati nel calcolo delle cedole del prodotto stesso. Quindi mi viene da dire che dipende un po' molto dalle circostanze dei singoli investitori. Un'altra cosa. Posso fare una domanda, dottor Iannelli? Prego, un attimo, prego, prima prego. Che lei ci segnali quest'ultimo aspetto, perché stavo leggendo anche qualche commento di suoi colleghi, e poi magari se vuole anche Iacovoni può rispondere a questo aspetto, che sollevavano che i tassi riconosciuti, anche se al momento abbiamo solamente le indicazioni sui rendimenti minimi, siano su questi livelli, ma il Tesoro avrebbe potuto fare anche qualcosa di più interessante, avrebbe potuto proporre qualcosa di più generoso, ma siccome in questo momento l'operazione è destinata solo al pubblico dei retail, non si volevano scontentare o, come dire, mettere in una posizione di disappunto gli investitori istituzionali. Lei come la vede? No, non penso che ci sia stata, e poi magari il dottor Iacovoni può confermare, non penso che ci sia stata una scelta fatta in questo senso. Le aspettative prima di oggi erano comunque in un range, comunque in una finestra che non era molto distante da quello che abbiamo poi effettivamente visto confermare dal Tesoro. E comunque se si va a guardare a quello che è di nuovo l'equivalente a disposizione degli investitori sul mercato oggi, è comunque uno strumento che offre un premio appunto e un incentivo per la clientela retail, per la clientela non istituzionale. Quindi non credo che ci sia stato un questo tipo di ragionamento, ma il dottor Iacovoni può confermare. Iacovoni? Non lo so. Sì, intanto lo ringrazio perché sono state dette una serie di cose assolutamente corrette. E tre spunti flash. Noi quando andiamo a prezzare qualunque strumento finanziario, anche uno strumento finanziario innovativo come il BTP Futura, dobbiamo ovviamente tenere conto di cosa sta esprimendo il mercato. Abbiamo, come sapete benissimo, un larghissimo parco di titoli quotati su mercati regolamentati, quindi con prezzi ufficiali, e quindi diciamo il mercato ci esprime dei livelli, e quindi quando si lancia un nuovo strumento è chiaro che il riferimento deve essere il livello che è espresso dal mercato. Poi ci sono delle valutazioni discrezionali di un'eventuale premialità volta a incentivare una ulteriore partecipazione, ma che normalmente comunque è una premialità minima, e questo a prescindere poi da che sia il destinatario dell'investimento, se sia un investitore istituzionale o un investitore al dettaglio. E quindi diciamo il ragionamento che è stato fatto su BTP Futura è partito ovviamente dal BTP con la scadenza più BTP tradizionale con la scadenza più vicina, e intorno a quel rendimento a scadenza sono stati fatti una serie di ragionamenti con cui poi si è articolata questa distribuzione delle cedole nel tempo. Abbiamo 5 secondi. Prego, Iacovo. Sì, no, l'altre due cose flash. Ricordiamo sempre che però la seconda e la terza cedola, cioè quella del 1,30 e l'1,45, sono minime. L'avete sempre detto, però è sempre meglio ricordarlo. Sì. Per cui a fine collocamento, in funzione dell'andamento di mercato di questi giorni, potrebbero essere riviste esclusivamente al rialzo. Questo è l'altro punto. E l'ultimissimo punto, l'avevo accennato anche l'altra volta, ma ricordiamo sempre anche rispetto a quanto veniva detto in precedenza, che è molto corretto, sul fatto che questo è un titolo più lungo, quindi va a intercettare un... Siamo sulla sigla, dottor Iacovoni. E però questo è uno strumento che quando i tassi salgono tende comunque a avere un comportamento di prezzo più difensivo, quindi i prezzi tendono a scendere meno di un BTP tradizionale. Grazie, torniamo domani.